Ma è proprio gassegato. Hola. Uno, due, tre, prova radio. Coca-Cola. senti, K? Ti sento, Giulia. Come satura è la modulazione? C'è un'alternata, però se c'è portante senza parlare? Non so che c'è un'alternata. Come mai? Non lo so, ho problemi di massa sicuramente, però adesso... Adesso di meno, tieni il portante, non devi parlare, prova. Lo so, c'è l'alternata. E creali un piano di massa. Sto cercando la massa, ma di modulazione com'è? È buona, eh? Sì, già va bene, dai, dammi 5 minuti e devo portare il cane giù. Ok, K, dai. Stiamo facendo una prova, lo so, un pochettino di cosa, ma quello lì è il problema di massa, devo cercare una massa. Inoramma, ragazzi. Dai, 5 minuti arrivo subito, eh? K, dai. Ecco la bigiola. Adesso ti vai Gianni Gigo. Avanti, chi è? Bombolo sono, buonasera. Ciao Bombolo, e allora? Allora, chi sei? Antonio. Antonio Riserva. Ehi, capa, dove stai modulando, Anto? Sono vicino a Platamora. Chi sei? Forse Antonio Riserva, c'è. Dove sei tu, a campagna? No, Santiago. Santiago 5, dai, vediamo, anche io arrivo, sì. Santiago 5 anche tu, sì. Andavo. Ho piazzato la boomerang, che mi ha venduto Antonio, la boomerang quella della Lemme. Beh, va bene, l'ho tratta 1 e 1. Però nei canali bassi c'è banda H, tra 5 c'è delle stazionarie. E anche la voglio mettere sul tetto, qua tanto non è molto ingombrante, dai. Io lo so, diciamo questo con la mano, ho tagliato un pezzo di antenna, ho usato il radialino, quello che è in mezzo. Non ho capito, sto passando, hai allungato il radialino? E beh, tutti i canali, quanti c'è, cioè, cosa ti fa, da 26 a 28? Sì, praticamente mi fa da 25-500, c'ho 1 e 3, sulla banda, praticamente mi aggiunge 1, e dopo il 27-500 c'ho 1 e 4, ma è abbordabile. Allora andavo, sì. Vabbè, poi me lo fare sapere come è fatto, dai. Ma dalla punta l'hai tagliato? Va bene, io vado a portare il cane, arrivo subito. Il K. Buonasera Antonio Riserva, come vi senti lì a Platamona? Bene. Anche a Platamona arrivo, caspitina, oi oi oi, manco mare, dai. Sì, cappa, dai. E adesso già mi difendo bene, arrivo anche a Porto Torres, ci arrivo. Ah, già va bene, già. Che antenna stai usando per la macchina, lunga o piccola? Allora va abbastanza bene, va. Sì, ma non c'è una vecchia, non so neanche se non c'è una vecchia, se non so neanche se è accordata. Che caspita, esce bene. La PMC1000 era un'antenna buona, mi erano. Non so, è cosa, ma anche un bel po' di soldi. Magari vuole accordare, però io ho detto, come è, devo attaccare da Tonino l'hai presa, no? Da Veneto, ma l'avevo presa da Tonino, non l'ho mandata via. Che è una diga. Sì, l'avevo presa da Tonino, l'avevo mandata via. Poi avevo preso, una Pisano, meno manca, avevo preso la legna, la manca della legna. E K, no cavolo, non sei fortissimo di segnale, però cavolo esci forte, arrivi bene qua, cavolo, la PLC 1000 è buona. No, è una bella antenna, io non so se ce l'aveva cosa? Natalino ce l'aveva, a che bobisci a voci? Sì, bravo, sì, quella, come dico quella che aveva la Natalino, c'è un modello dopo, questa è quella più vecchia. Cavolo, ma è stata tenuta in maniera maniacale, no? No, vabbè, era comunque a riparo, va alla grande, va veramente alla grande. Non è vicino, no, per dove siamo. Da dove sono io non è vicino, no. Siamo un po' lontani. Prego. Stato. Avanti il break. Buonasera a tutti, Marco. Antonio, ho letto il messaggio solo adesso e sono entrato. Chi è l'altro amico? Antonio? L'altro Antonio? Antonio Riserva da Platamona. Com'è? Sto usando il dettaggista, usando il B300. No, B300, non l'altro, come cavolo si chiama? Eia, sì, Antonio è Santiago 6, Santiago 6, ma è buona la... è molto capibile la modulazione. Non so se lui mi ascolti, io sono con 3 watt. Oh Marco, guardano il segnale mio un attimino. Fa la cortesia, grande, l'abbiamo sistemata per bene da stamattina. È sempre uguale o più basso? Luca, siamo sempre lì, tra 9.10 e 9.15. È stabile, non ha migliorato, non raggiunge 9.15, è a metà strada, dai. Comunque la radio va bene, a posto la radio. Adesso è un abisso rispetto a quando avevi il radiale o la Thunder, come si chiama quella bazooka? No, un radiale di Mantova c'avevo prima. No, l'antenna è un'antenna per veloci. Ah, beh, Pudusa. L'ho avuta anch'io. Ma quale, Anto? La Storm? Allora, oh, che bello! Ancora la mia, ce l'ho buttata. Oltre che frusci anche cuomani sono. Andiamo e andiamo. E allora? Stasera Natalino Alfa 1! Ehi! Vai Natalino. Posso parlare? Dai, ciao a tutti, sto in ascolto. Parla Futtidini, il telegiornale alle 8, non è adesso. Natalino, bene, mi ascolti, arrivo bene da te. Benissimo. Ah, mezzuga, la prima ti ascoltavo basso anche a te. Vabbè, lasciamo tutto così e non ce ne può fregare di meno. No, niente lineare, io esco liscio. Liscio come l'olio. La frappia, arrivo subito. Qua Natalia fondo scala. Che ti attenuo. Attaccato e staccato. Ti dico come andare, vai. Come virai? Forse l'hanno chiamato, dai. ma com'è, ma com'è con questa, con questo coso? Va bene, sì, perché adesso c'è la tensione giusta, Sì, più che altro la corrente è giusta. Ho detto, fai la prova attaccato e staccato, che ti attenuo, dammi tempo. Ti dico quando, prova, vai. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sì, da 4 a 6 passi, circa 4 a 6. E quindi sembra che ci sia abbastanza differenza. Prima aumentavi di solo un Santiago. Copiato? K, questo qua è il gettagino, lei 747. Se vuoi provo anche l'altro, tanto mi basta un minuto, devo cambiare i PL e basta. Aspetta, tieni premuta la portante un attimo. Lo so, c'è una, appena appena una cosa. È alternata, me ne sono accorto. Vai Antonio Di Sé. Ah, quindi addirittura dall'essere sentito al non essere sentito, ho capito Antonio, già aiuta abbastanza quello. Cosa vuoi andare con 4 watt? Però io arrivo a Platamona, ma tu hai uno smitter leggibile, com'è il segnale con 3 watt? Vedi un po', Antonio Riserva, 1, 2, 3. Sì, ha staccato, praticamente ha messo 4 watt e ti è sparito. E va bene, dai. Riprendete voi, io ero in macchina che stavo facendo delle prove di ricezione in altre bande. Riprendete. No, no, no, adesso sono a casa. Poc'anzi ero sotto casa, stavo cercando di capire quale antennino andava meglio per ricevere le bande amatoriali VU. C'è quegli antennini di AliExpress, c'è quella da 14 cm, poi c'è la Nagoya 102, la Nagoya 100, aspetta com'era, non mi ricordo le sigle, insomma una è da 14 cm, una è da 20, l'altra è da 35. Insomma è un compromesso. Però se non vuoi mettere roba più pesante, basi magnetiche grosse, diciamo che bene o male andando a Platamona, Polo Torres, sentivo sempre il ponte Cesar, sentivo sempre i ponti in V, no, i principali ponti. Quindi bene o male tutte, non dico che si equivalgono, certe vanno molto peggio, però funziona, per ricevere funziona, ancora. Quale dei Diamond, quale, ti ricordi il modello? Sì, l'SO, il PL. Sì, comunque è vero, io ho la NR770, quella da un metro, della Diamond, è in acciaio inox, ha la spirale a metà, no? Però non c'è storia, certo è un altro pianeta rispetto a questi antennini Nagoya, UT108, UT102, UT106, sono molto... Poi no, hai visto la calamita com'è? È una moneta da un euro, nemmeno, più piccola anche. E così è qua. Qua ho perso il conto, dalle più corte alle più lunghe, arrivo fino alla coppia clone però, della Diamond SG7009, quella da 1,58 m. Quella però è pesantissima, è 3x5 ottavi in UHF, è un mostro. Pesante, non flette, è un roccio, è una spada, non è un'antenna, però c'è una resa in ricezione. Ciu ciu. parlo di ricezione perché io tanto non trasmetto in base amatoriali, al massimo in PMR, ecco. Riprendi, dai, riprendi poi che riassetto qua tutta la baronda che ho fatto. Capo, guarda Marco, ti ho mandato una cosa bella, ti ho mandato. Come? Ehi, aspetta che guardo. Sì, sì, sì, l'alimentatore mi pare di aver visto. Io, l'alimentatore che ho preso, a fanculo me lo sono comprato, 20 euro. A dico che pompa, cavolo, me lo tiene bene questo affare. Prima si drudiava. Da Marco, c'è ma cosa tu? Stazionari che ce ne ho? Detto ma. Ti ha chiesto se hai stazionari quando attacchi. E chi? Perché stazionari? State parlando in due, in tre, vabbè. No, ho chiesto se aumentano le stazionari quando attacchi, o credo di aver capito così. Vabbè, non ci capiamo. Dai, bianco per me, riprendete. Ah, ci ho compreso così, non avevo capito bene. Sì, sì, quello lì ho preso. Lo volevo senza, ma non c'era, ho preso quello lì da 30 ampere. A Puglia che lo porta bene la situazione. No, io qua già va bene, solo che vorrei far rifare un pochettino più di massa. L'unico problema è quello, però cavolo, vedo che me lo porta bene, non ho problemi. Quando le cose funzionano. Ma l'ho pagato 21 euro, l'ho pagato, non è neanche caro. Fagliette Zeus. Quanti ampere c'ha? Cazzo, dove stanno parlando? Aspetta che aumento un attimino il volume, ecco. Mi stai dicendo quanti ampere c'ha? No, ho detto ma non tanti. Chi è? Avanti che vuole entrare. Lafayette Zeus, hai copiato Antonio Riselli? Sì, Anto, praticamente che lineare è, si può dire? Quanti watt assorbe? Quanti ampere assorbe? Il su della zeta G, come ti chiama? Scusa, ci sarà la serigrafia, no? C'è scritto davanti che modello è. P150 sto utilizzando adesso. Ah, quello. E l'altro, il 747, quello dovrebbe dare magari 10-20 watt in più, però te li dà. Adesso stavo provando questo. Se vuoi l'attacco un attimino. Sì, vabbè, però non vorrei che poi. Vabbè, io sarei in ascolto perché sto facendo roba. Non è che voglio che diventi un canale di prove per l'ennesima volta, no? Poi si buri la gente e se ne anda. Ah, io Anto, fammelo provare. Beh, dai. Via. E adesso prova, dai, vediamo se ne esce. Chi è che vuole entrare avanti? C'erano due segnali differenti anche. Niente, sono tutti timidi, Anto, non lo so. Porca miseria. Ecco, allora mi ha mandato la foto dell'alimentatore, però a me tutti questi fili messi su questa morsettiera, a me non mi biasi, no. Io ho solo alimentatori, roba Proxel, tutta roba dove c'hai l'ingresso per le banane, la strumentazione al limite, uno con la strumentazione e l'altro senza, però una morsettiera a vista non mi ispira assai. Prova a vedere, hola. Ehi Anto, vediamo se cambia. Aspetta che ti attimo, dammi tempo. Aspetta che abbasso, ti dico il via, vai, via vai. 2-3, prova radio. È staccato, no, non farlo, no, siamo lì Anto, non è che, siamo nuda e nuda. Via niente, la modulazione è sempre buona, sì. Relativamente buona, c'è sempre una piccola, un po' di saturazione, non un po', abbastanza, ma è capibilissima, niente da dire. Si equivalgono col B, col ZG, no? Boh, non lo so, l'uno vale l'altro, uno c'ha quel finale a croce, brutto, che a me non piace, e l'altro c'ha, dovrebbe avere qui quattro finali, che la RMI Italy chiama MS1307, non ho capito bene quali siano, se siano gli RF520 o cosa cavolo so. Comunque, bianco per me, dai, non posso riprendere, riprendete voi, vai Anto. Capa, c'è Antonio Riserva, chi sei? Non mi ricordo. Capa, avanti il break. Capa, 6-9, 9-10, Radio 5, tu come mi senti? 5-9, sì, buonasera, comunque anche gli amici, dai, che ci sono ascolto. Sto provando questa gran presa, questa è la puttana che sta andando, tutto qua, ok. Dai, a tu. Capa, ma dove sei, Anto? Dove sei, che zona sei? Zona campagna, tu, zona campagna. Ah, ecco, bagosa, te va bene comunque, dai. Sto provando questa tema, appunto, allora, sto andando una questione qua, ok, comunque c'è da bene, c'è l'aria buona, quindi tutto ok. Sto facendo, vediamo un po'. Ok, qua ci siamo. Ok. Franco. Ai. Mi. Sempre prendi, vedi. Fatte. Ma Claudio, buonasera, mi stai facendo tutte, no? Sì, ma tutto va, secondo te fatte. È tutto, mi sono facendo, proprio tutto. Buonasera a tutti, vai, continuate, io già sono qua in ascolto, sto facendo cosa. Ehi, ciao Claudio, comunque Franco qua ho tra 8 e mezzo e 9, zona cinema Ariston. E quindi questa gran prima, va bene, dai, un po' veloce, dai, mi devo quella che c'era, forse che suona meglio, perché mi ascolto molto bene. Claudio, 9.40 qua sta arrivando, allora. 9.10, fa segnale più alto che hai mai provato, dai, va bene. Quindi la parte non la lascio fare qua, va bene così. Alla grande, lascia così. Claudio, lo senti Antonio Riserva da Platamona? Cosa c'è qua, dai. Sì, cosa è Antonio Riserva, ci mancherebbe tanto. Riserva, è imparito, non c'è più. E magari esce già a pigliare il caffè e roba del genere. Ehi, va bene, io qua stavo riassettando, stavo facendo una prova di ricezione con antennini, ma non, più di tanto non, è inutile, dai. Che cosa? Aspetta, forse ci sento troppi segnali qua, no, adesso stacco infatti. Questi antennini magnetici, anche Antonio Riserva, sono un po', sì, ricevi, però non è mai come una Diamond, quelle belle con l'attacco PL, la puoi mettere a base magnetica, oppure a gronda, a baule, capito? C'è un leggero abisso, va bene, dai, riprendete, bianco per me. Va bene, rimango in cuore, se chi c'era Antonio Bombolo, anche avanti. è K, K Cla, e mi stavo facendo le prove perché ho sostituito l'alimentatore. Ma si libera base, ce la fa anche per quello, te lo ricordi un bel po' di anni fa, quello che mi hai dato tu, i B300, il BAS, come cazzo si chiama, il B150, funziona anche quello bene adesso. Adesso quello che ti ho usato, il B150, va bene, è molto più forte rispetto al 747, sì, quasi 9 più 20. Me la sono tenuto gelosamente da quando me l'avevi dato un bel po' di anni fa, c'erano quasi 10 anni, se ti fidi. Io me la tengo molto care le cose. E io, va bene, tu va benissimo, la grande 9 più 20 rispetto al 747 funziona anche meglio le radio. Spero che fischi avanti. Sono tornato, Gava. E io, anche tu Luca, stai andando benissimo, fatemi finire questo a radio che non è la mia, la devo consegnare. Ok, già sono qua, che sto facendo? K, dai, fai cla, non c'è problema. Ehi Lu, sei ritornato, sono contento comunque che lo sto riutilizzando questo. Capo, funziona benissimo. A me stai dicendo tu? Ho detto, in generale, che sono contento che lo sto riutilizzando, era sempre vemmo, era, perché non ce la faceva l'alimentatore. Ha voglia, va bene, un segnalone hai, K. Un gioco in Kiwi. Vai. A 1,3 prova? Sì, in mezzo, tra le tre e il più. Che agguato, sono contento capo, sempre in Kiwi era, avevo quasi 10 anni mi ce l'avevo, sempre tenuto gelosamente, non l'ho mai dato. Lo facciamo meglio anche del 747, veramente molto bene va. Contento cla. Va bene, non me l'hai detto qua, mi ricordo che andava sempre bene, sei un pochino più alto rispetto al 747, sei praticamente sul 2, quindi 9 più 20, l'altra era 9 e 15, questa va molto meglio. Pacca, no, sono contento, vabbè, quando vai alimentare Dionisuglia hai chi dà la ragione. Infatti ho dei fatti giusti, non satura, non ti dà la distorsione, è normale che funziona meglio, Se a me mi state ascoltando bene, la chiudo questa radio, ok? Cosa dite? È una bomba, cla, è una bomba. Che non ho più B300 di mio padre, se no guai. Quindi, vabbè, tu, non cambia niente. Non cambia niente, dai. Da 100 a 150 cosa vuoi cambia. È sempre importante quello che ti ho detto ieri. La posizione, non te ne messa in un'altra, insomma, diverso, per avere il massimo, va bene come stai andando, non ti preoccupare che stai andando alla grande. Allora chiudo questa radio, Luca. Ah, Sparviero! Eia, è stato la stamattina, se vuoi stamattina va bene. Mi fai un passaggio? Eia, ciao, Antonio. Dai, è perché ho fatto alcuni ritocchi che andavano fatti e non è la mia, la devo consegnare perché è SEF. Se va bene la chiudo così, ok, radio è buona, segnale è buono, è tutto ok. Eia, non si sento, ti ascolta bene, avanti Antu. Una bomba. Avanti Antonio Riserva, ma si è fatto un bel disegnare, dove sei? Ma sono a casa. Io, Anto, in base a riferimento a quei messaggi, perché hai notato differenza, andava bene, lavorando con la roba a casa. No, io là, quando le macchine ti sentivo bene, qua il segnale si vede che c'è, la radio è buonissima. No, beh, questo è il 440, non è il mio. Devo fare alcune cose. Non mi dico, hai visto il segnale di quello, mi ascoltavi bene? Sì, benissimo. Ok, ho fatto la prova anche con Luca, con Antonio. Giusto così per farlo andare un pochino. Adesso lo... è sempre collegato, ma comunque lo uso in caso di necessità. Già va bene così come vado io sempre. Ok, allora continuate che io mi sposto un attimo, faccio ulteriori prove e poi lo chiudo e così lo chiamo e viene a prenderselo, ok? Bene. E io, a dopo, sono qua comunque, l'ascolto. Appagà. dai. Asciuga. A vento la va. Oh cavolo, adesso già è una moria. Sì. Adesso mi sentite meglio che sono arrivato a casa, sì. Bomba zia, tu. Qua ti sento perfettamente bene, tu bene mi senti lì. Mi si è girato una bomba. Non è che 4 km più lontano ero. E capa, no, vabbè, Platamona. Per me è un pochettino più come si dice. Mi sta scorrendo la lotta, qua. Eia, siamo qua. Luca! Mi sono andato sempre stato notte, non fa vedere più. Luca sta sempre saldando, facendo, operando a cuore aperto. Sì, qua sei 8 più modulato 8 e mezzo. Modulato 8 e mezzo. Sono basso però, Marco. Sì, basso. Basso, cioè, ti sento benissimo. Tu il segnale, quello che conta la modulazione, fatti bene. Lo so. Praticamente dall'antenna di casa, l'antenna della macchina è cambiato poco. Da 4 km avanti a 4 km indietro non è cambiato niente. No, prima eri 6, 6 e mezzo, adesso sei 8 e mezzo. Ehi, vabbè, ma cosa ti consideri? Prima ero 6 e mezzo. E quindi praticamente ero almeno fai 100 metri più in basso. Ero 4 km 5 più fondo. Adesso c'ho anche un'antenna diversa, non è che sia cambiato mondo. Ti la gira come dalla macchina. Io non mi ricordo che configurazione hai tu di antenna. Se avevi messo roba grossa o no, 5 ottavi, non me ne ricordo. No, io ho la Mazda fa 1, una vecchissima Mazda fa 1, però non ha radiali perché ha tutto il piantone spaccato. Non c'ha solo un radiale perché c'è solo un buco per mettere il radiale, però è accordatissima, performante, cioè. Però i radiali sono a livello tetto, quindi è bassa, molto bassa. Adesso mi metto la portante da questo. Duro e anche scappellato. Hai finito? Hai finito però, coglione! Non vero! Ehi, allora, va bene, va bene. Ma ascolta, Antonio, perché l'hai piazzata la boomerang? Cosa tua, no? Adesso ti metto la portante. Aspetta. E non ci parli neanche col muro. Tanto sembri qua adesso, allucinante. Sta arrivando qualche bombolino adesso. Tra il più e il tre. In mezzo, sì. Hai capito che se voglio ti metto la portante e non parli neanche col muro? Stesso segnale di Luca. Ah, esci una bellezza, non satura niente, bella, di lusso. Vabbè, ascolta, non per questo io sono un tecnico. Luca, quello lì, quello che ti avevo fatto avere io. Quello lì, quello che ti avevo fatto avere io. No, questo qui, là, è un valvolare. Bello, quello piccolino. Ma sei un tecnico o un tecnico, Anto? Un tecnico, 2N. Luca, arrivi bene, cazzo, arrivi benissimo adesso, Benissimo, perfetto. Infatti non riesco a capire perché esca così perfetto, che di solito i valvolari scantonano sempre. Arrivi, 9, 10, 6, abbondante. Però tu come stai nel negativo, Cla? Negativo? No. Allora, quando fischi va in positivo, però quando fai a modulare sei negativo. Così, modulando qui sono negativo, c'ho picchi positivi. La messi? No, se fischi va in positivo. Sono attento. Vabbè, Cla, io sto usando un 48, prova, tieni la portante fischia e poi tieni la portante e parla. No, che sto andando normale, non ho toccato niente io. Allora, quando parli sei negativo e quando fischi pure. No, la me è positivo quando fischia. Che ti devo giù un tappo e va negativo, non ti devo preso il radio, cosa cazzo va? Vabbè, Cla, non fare affidamento con queste radio nostre, che cazzo, mica sono radio. No, sempre lo smette si muove, cioè io non ho fatto niente. Ho messo il tappo e boh. Cazzo di altro. Sempre in negativo sono, come positivo. Ma è un passaggio, clap. Va bene, se sono negativo, positivo, cazzo mi sbocca da onda, ci metto un dappo, non passo anche la radio, cazzo. Allora, padrono, e se lo mandare a far culo. Bene, ti mando il video. Grazie di essere. Si nota poco quando attenuo. Quando attenuo, ma è una cosa minima al mio smitter. Guarda così, se non ti picchi positivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda che sono positivi adesso. Positivi, adesso sì. Cazzo di amore. Non malattia la radio. Non malattia. Non è fendicino dai vetri. Cioè, torno al capo. È positivo, non va a parlare negativo, ma c'è una cosa del genere. E tutto è possibile, infatti si è vista una differenza notevole adesso, sono positivi. Boh, io ti dico, vuol dire che va usata aperta quella, io ti dico. Che è una cosa allucinante, veramente, cioè non riesco a capire come facciamo a dare delle cose, boh, non so, vabbè, bocca c'è mia, state zitta, va bene, vai. Ti stai abbassando però qua di segnale. E io stavo mettendo a posto qui, Antonio Bombolo, non so se c'è ancora, quindi sono in ascolto per adesso. Antonio. Ho detto che per un attimo mi è sembrato che sia passato da 9 a 5. Sì, sì, c'è questo cazzo di effetto, non capisco cosa sia, capite? Perdere la potenza, boh, non so, non riesco a capire, purtroppo senza la strumentazione valida non è che puoi andare a toccare, a far pulito tutte le spinette, tutti i contatti, tutto quello che c'era da fare, però non è che ci puoi mettere le mani senza avere la strumentazione e sapere dov'è questa perdita, capito? Boh, non è proprio una perdita, è uno sgancio, secondo me sgancia il DLL, ogni tanto cerca di... e si intrippa. E tu, cazzo, non lo mi stai dicendo, cioè non ti devo insegnare niente. Se sgancia il DLL c'è un allarme grandissimo su questa radio. No, ma quelle radio lo sai che peccano di questi problemi qui, Cioè non puoi, cioè al giorno d'oggi, anche se gli metti mano, anche se ti dicono tutto quello che vogliono, comunque è sempre, meglio non acquistarle mai. Un bel colpo per il proprietario che l'acquista troppo. Vabbè, io lo sapevo subito, l'ho detto già da ieri notte, perché ho pensato un falso contatto sulla parte del potenziometro, sulla scheda unit. Non sono collegate le spinette della potenza, ma le ho tutte pulite, tutte tolte, una pulita con la trinina, rimesse, sembrava che andasse bene, però appunto, come hai detto tu, c'è lo sgancio del PLL, ed è una cosa un po' particolare, vabbè, ok, non so cosa dite, non so cosa fare, la radio è perfetta, così va bene. 20 watt, se vuoi attivare sulla potenza sgancia il PLL. Sgancia perché purtroppo quella componentistica è così, e poi quella che la componentistica che si sostituisce oggi, lo sai che non, componenti buoni non se ne trovano più, tutta quanta robaccia. Io per quello che ho smesso di toccare radio, di fare, perché intanto non puoi riparare neanche un ala 48, perché non trovi neanche, difficilmente riesci a trovare un finale originale, trovi solo cinesatte che ti fanno perdere la testa e basta. Non mi dispiace che se, perché esce molto bene di radio, una bellissima ricezione, però questo problema che sgancia il PLL è un problema molto molto delicato e io purtroppo non posso farci niente, non sono tecnicamente pronto per aprire, per fare, per vedere, non ho strumentazione, non ho niente, però quindi rimane così, va bene. Continuate pure, che la chiudo, perché intanto non posso fare niente, no? È un problema che va risolto in laboratorio, io sicuramente non posso farlo. Dai, ci sentiamo dopo, ragazzi. Ehi, dai, c'è quel ragazzo, quell'amico vostro che le fa queste cose, potete darlo a lui. Ma io ho amici che fanno queste cose, non ne ho, magari c'è qualcuno che ce l'ha, io sono rimasto da solo, con le mie radio, con i miei, con i miei hobby, diciamo che mi arrangio da solo se riesco a farlo, se non riesco a farlo preferisco non mettersi le mani. Lo buono è che detto le poche parole, non ne ho amici io. Ok, ritiro. Mi sembra che te l'avevo già detto una volta, però le parti stanno un po' rincoglionendo, quindi scrivetelo da qualche parte, te lo prendiamo avanti, c'è Claudio, non ho amici tecnici, capito? No, io ho tenuto a mente quello che mi hai detto, non ho tenuto a mente la lista. Abbi pazienza. Sì, ma in quella lista, quella che stai dicendo tu, è già 5-6 anni che è fuori dalla lista, quindi vabbè, dai, anche già mai capito, dai, chiudiamo il discorso. Comunque io non sono in grado di poter fare questa riparazione, quindi il proprietario dovrà pensare lui che cosa fare. Ok, dai, ci sentiamo dopo, ragazzi. Bene, dai, a dopo, sono qui un attimino che devo smontare una cosa e torno un attimo. Tu invece tecnicamente non ti è rimasto più niente di laboratorio, no? A vedere perché sgancia più l'olio. No, io, claro, la verità non ho più niente, ho 3-4 cose chiuse nelle scatole che ormai sicuramente non funzioneranno più. Grande peccato, grande peccato, va bene, ok, grazie lo stesso a te. Positivo, sì, positivo. No, adesso vai bene, è che poco fa ho notato per un attimo che ti sei abbassato, però poi non l'ha più fatto. No, no, se non tocco la potenza rimane così, non lo fa. È proprio, tipo, non ti aiutami a dire, forse quasi una protezione, non lo so. No, ascolta a me, ma invece avete provato a controllare il potenziometro del carrier? Controllato, infatti la tengo sino a domani perché non ho spray per contatti, perché essendo al carbonio quel potenziometro lì, all'intorno, dietro, non so se l'ho mai vista, ma penso che sì, c'è anche un circuitino stampato, non vorrei ci sia qualcosa lì, però le spinette le ho tolte, pulite con la trilina e non mi dà nessun risultato. No, ma non c'entra niente, potrebbe essere anche che si sia mangiata la parte del carbonio e quindi quando superi quella, diciamo, quella distanza lì, lui non riesce a regolarsi e quindi da, che ne so, se da 50 ohm ne dà 20, 25 di colpo, 30, 35, non è detto che sia un problema di PLL, potrebbe essere anche un problema di quel potenziometro, perché a me me l'aveva fatto una volta l'850 mi sembra. Sì, l'850. E quindi cosa dici? Smontarlo e vedere se è a posto. Come cazzo fai poi? Con i potenziometri lì al carbonio non è che si trovano facilmente? No, i potenziometri lì si trovano, nel senso che non trovi l'originale suo perché è doppio, perché fa sia il carrier che non mi ricordo che cosa, e il Mickey Game mi sembra, adesso non me lo ricordo bene, però l'unica cosa che potete fare è di saldare quei tre fili, tanto ne ha tre, e mettere il potenziometro a parte e provare, mi sono regoli, insomma, 20 watt, non lo tocchi perché chiaramente se non posso ti dà questo difetto, se no niente, gli saldi di nuovo quei tre fili e gli ricolleghi al suo. Non ci mettono lui perché ciao, ti lo crepi, non ti preoccupare. Ascolta, ti adesso che sei entrato, una domanda. Oh. Ciao Antonio, era una prova così, dai, giusto con 10 watt. Ciao Antonio. Ciao, ti ben ascoltato. Oh, ciao Tino, sono rientrato, comunque Antonio è una gatta da pelare stasera, che arriva fortissimo, là. Fortissimo, cioè ha messo la stessa segnale praticamente. Cazzo, io non vi rispondo più, ma se siete tutti una cacca, ma devo commutare la radio e ti faccio vedere che non lo senti più, devo commutare la radio e poi non lo senti più. Ho capito se ce l'avete con me o se volete fare delle prove. A me ne basta solo passare l'angolo della finestra, attaccare il baracchino, commutare il baracchino e accendere le mele Italy e non lo senti più. Siete attaccati, io sto lasciando stavolta con 5-10 watt. Tino, ho bisogno di parlarti su un altro canale, dai. ragazzo, lo vedi che c'è mania di uno attaccato all'altro, cosa è chiaro che è normale, che c'è il mio segnale, arriva più forte, ma non me ne affutti nulla a me. In questo momento sto pensando a questa radio. Tino, ti puoi spostare al 20 un attimo? Io al 20, dai. Oh, vado a prendere una birra. Tutti al 20 se ne sono andati. Oh, marasolti. Adesso ti metto la portante. Muscolo i sedi di Blatter. Ma sei sotto casa, sì. Dov'è sei tre di segnale? Oh, ma che apparecchio stai usando già? Ah, ho capito. Però un po'. Fino a basso, eh. Già va, vai. Non lo so perché, ma sei al massimo della potenza con quel portatile. Capa. Comunque già stai arrivando, qua segna le lineette, sei 8, dai, più o meno sei 8, ma sei basso di radio, sì. Ti sei sposato? Gianni, dimmi. Capa, no, cazzo che strano. Non riesco a tirarti bene fuori. Stazionarie gliele controllate già. E capa capa. E a me bene mi senti? Che ha? Eia. Ma che c'è da Platanona? Oh cavolo, avvicina il microfono alla bocca perché non riesco a sentirti, se no. No, non è molto forte in modulazione, ma ce l'hai con Panther per caso quella radio? Già, non stai uscendo, non stai uscendo già. Ti sento tutto strano, ti sento. Senti che è strano. Non esci di radio, non esci. Perché? Non capisco perché. Adesso sì già. E a volte esci, a volte non esci, a volte esci, a volte non esci. Che strano, non so perché. Ti ho copiato già, cosa hai detto? Avanti, chi è? Un altro segnale ho ricevuto, chi è avanti? Oh, cazzo, non riesco a tirarti fuori di radio, non ve criccio che tenga. A volte ti riesco, a volte no, a volte riesco, a volte no, ma sicuramente c'è un qualcosa che non sta andando per il verso giusto già. Chi c'è qua? Sono in compagnia di Gianni, sono. ciao, ma io sento una portante Santiago 8 e qualcuno che sta accordando. Gianni che non riesce a uscire di radio, a volte lo sento, a volte no, a volte lo sento, a volte no. Ma sta usando il portatile o in macchina? Macchina, sta usando il portatile, ma non, c'è qualcosa che non va per il verso giusto. Gianni, mi senti? Controlla di non essere in FM. Sì, vedevo una portante che oscillava tra il 7 e il 9 e tutto lì, dai, qua è rimasto acceso e io sto facendo altre cose, ho mangiato e tutto, adesso mi piglio anche il caffè e anche l'amaro. E dimmi già, a papà l'hai fatta? Senti, ma... No, io c'ho il QRM a 4, 4 e mezzo, non lo sento. Strano, cazzo. Guarda che c'ha alimentatori, Ma Gianni dov'è? Non lo so, mi stava chiamando, ma adesso non lo sento più. Io credo che stessi parlando con lui, Sì, stavo parlando con lui, però ogni tanto mi spariva di radio ogni tanto, capito? Vediamo se sistema qualcosa, dai, se tocca qualcosa. Forse sta usando il mic esterno. Un connettore che non anda, boh. Sì, magari, titolai. No, non lo sento a Gianni, non sento nulla, sento solo te. Oh, hai capito, non era Gianni. C'è stato un rutto, c'è stato. Attenzione, cari amici, ascoltate il tuo rosso in chiaro, avanti. Avanti già, avanti. Adesso mi sentite, però in effetti, ma stai fischiando, sai, Come fischiando? Adesso non l'ha fatto, stavi fischiando, te lo credo che non riuscivano. E in FM non si comprendeva nulla. Sì, c'era un innesco terribile, nell'ultimissimo passaggio non l'ha fatto. Ah, io ti ascolto, non ho problemi, ti ho ascoltato bene. Ma se dici che c'è un innesco, tu non lo so cosa sta succedendo qua. Guarda, vedi se sto uscendo bene, sto andando verso Plattamona, per vedere come va questa antenna. Non c'è problema, qua noi ti sentiamo, c'hai appena un innesco, vuoi controllare dei stazionari e tutto, però fino adesso ti sentiamo alla grande, ti sentiamo, a noi ci senti bene. È brutto, bene, voglio vedere come va, dai. Capa, sì, sicuramente come stai viaggiando già, sicuramente un pochettino, magari in certi punti non, magari appena in stazionare ti gira le balle, magari in certi punti, ma non è niente, vediamo un po' quando superi il Mar Graziella a vedere cosa ti riusciamo a tirare fuori, dai. C'è ancora il fischio, o è la macchina magari, come sta viaggiando. Come mi senti tu lì? Va, sei uscito da frusci, sei uscito. Marco, come le senti lì che è verso il Mar Graziella lì lui? Allora, di segnale lo sento, ma c'è un innesco terribile, uno stridio forte. C'è qualcosa di non perfetto, vuoi qualche rientro oppure non lo so, vai Gianni. Guarda adesso senza microfonino se vado bene. Alla grande. Marco. Perfetto. Allora il microfonino piccolo che non va bene, dai, che ti fa uscire male. Boh, strano però, con questo qui va bene. Sì, però ricordati che il difetto lo fa solo a momenti, non è fisso. Ma io adesso ho tolto il microfonino piccolo, e probabilmente è quello lì, non è l'apparecchio, dai. Il microfono sicuramente, che non si adatta all'impedenza. Ma quello bello che ho visto io? Allora, quello piccolo. Sai cosa, a me è venuto il dubbio vedendo... Ma non è lo stesso che c'ha coso, come si chiama? Lupo? A lui va bene. Ah, ma c'è un Midland lui c'è un apparecchio Midland. Il microfono è Midland, forse a lui si accoppia meglio per quello. Sì, vabbè, comunque è interessante che mi ascoltate. Adesso sto parlando col portatile, spero che mi ascoltate.